mancano poco più di 2 mesi al vertice del G8, meno di un mese quello ministeriale sullo sviluppo. Io credo sia importante continuare a ribadire di fronte a queste due scadenze la necessità che i leader dei grandi paesi guardino l'attuale congiuntura economica anche con gli occhi al sud del mondo. La crisi finanziaria in appena 6 mesi ha distrutto 7 trilioni di dollari del prodotto interno lordo globale. Sappiamo, li vediamo ogni giorno, quali sono gli effetti sull'economia dei paesi sviluppati, ma tendiamo a non vedere le gravissime conseguenze che essa sta avendo e ancora di più avrà nei prossimi mesi nei paesi in via di sviluppo. Noi stessi del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, quindi un'agenzia che si occupa di assistenza alimentare, dal nostro osservatorio registriamo come anche quest'anno saremo costretti ad assistere 100 milioni di persone che non sanno come procurarsi il cibo. Ci sono stime, neppure tra le più pessimistiche, che indicano che quest'anno altri 50 milioni di persone si andranno ad aggiungere all'esercito di chi già vive con meno di $1 al giorno, cioè meno di ciò che è richiesto come minima sussistenza. Per questo, ecco, noi crediamo che sia centrale che la lotta alla fame e al sottosviluppo rimanga centrale nell'agenda dei grandi, nei prossimi vertici, nel vertice del G8, e soprattutto che ci sia un impegno concreto, ripeto concreto, affinché l'aiuto pubblico allo sviluppo torni a crescere. Esso è in costante calo dal 2005 e credo che questo sia uno dei primi e più importanti impegni.